24 mattino. Un milione di persone deve ancora prendere la cassa integrazione e si scende in piazza contro il razzismo. Posto che il tema del razzismo è un tema serio e che va sicuramente combattuto, ma siamo davvero un popolo strano. Noi andavamo a scuola negli anni 70 facendo il doppio turno, perché così raddoppiavamo le aule. Lo dovevamo fare perché eravamo in tanti. Oggi non siamo così in tanti, o perlomeno non sono così in tanti gli studenti. Perché non pensano di fare doppi turni, i signori professori, e di impegnarsi in prima persona come tanti altri hanno fatto e stanno facendo in tutti gli altri mercati? Buongiorno Simone, ma mo è uscito fuori lo Ius Soli, con tutto quello che c'è da fare, ma rimettessero a posto il paese. E va bene, le vostre opinioni, le vostre idee. Il milione in piazza, cioè le persone in piazza contro il razzismo per la vicenda di George Floyd, fanno discutere, soprattutto perché assembrati, non certo ad un metro di distanza. E molti stanno facendo notare, molti di voi ci scrivono, sì, benissimo, giusta la lotta contro il razzismo, mi piacerebbe una mobilitazione simile per Hong Kong, dove la Cina sta mettendo in atto una repressione feroce. Cogliamo lo spunto e ne riferiamo. È sulla questione dei doppi turni, si sta ipotizzando anche questo, i doppi turni a scuola è una delle ipotesi, ci si sta ragionando tra le tante cose, ne stanno girando tantissime, c'è un gruppo di lavoro che sta redigendo, ha redatto un rapporto e lo ha consegnato alla ministra Azzolina, vedremo che cosa ne emergerà e come ripartirà questa scuola alla quale sono dedicate molte pagine sui quotidiani di oggi. È la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È l'8 giugno, lunedì 8 giugno, sono le 7:19 minuti e 39 secondi e al microfono c'è sempre Simone Spezia. Giornali che oggi variano molto le aperture. Se il Fatto Quotidiano e il Giornale si dedicano all'inchiesta di Report sul presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che minaccia Report e il Fatto e si contraddice, secondo il Fatto Quotidiano, per la commessa regionale arrivata alla ditta del cognato e nella quale la moglie ha una partecipazione del 10%. Una commessa per dei camici che poi appunto sono stati... in realtà le fatture sono state stornate, di fatto è una donazione. Quello che il giornale definisce un l'ultimo giro di fango, il nuovo attacco alla Lombardia. L'azienda del cognato di Fontana, 350.000 euro per fornire camici, e questo è tra virgolette, ma il governatore fa sapere che è una donazione gratuita. E queste sono le aperture del Fatto Quotidiano e del giornale. Si dedicano invece alla sanità Il Messaggero, La Verità e Il Sole 24 Ore, come avete appena tra l'altro sentito nella controcopertina. Sanità, il piano con i fondi MES è il titolo del Messaggero. E La Verità, il ricatto sulla salute per far passare il MES. E quindi il tema è sempre quello: il fondo salva stati per la sanità e se utilizzare o non utilizzare questi soldi. Il Sole 24 Ore apre sulla nuova sanità che arruola infermieri ma delude i medici di base. Tra l'altro vi dico che alle 8:20 con Maria Latella, lo spazio Maria Latella, dedicheremo spazio esattamente al tema della sanità, ma andremo a toccare un altro fronte, così come venerdì ci siamo occupati della giustizia e del fatto che a causa dell'emergenza Covid si è praticamente bloccato tutto e ancora non è ripartito, con un 15% di udienze celebrate nel civile, un 25% nel penale. Oggi andiamo su quello che è rimasto in arretrato sul fronte della sanità, tutte le visite saltate, gli interventi non urgenti che sono saltati, tutto quello che si è bloccato negli ospedali e che solamente in parte è ripartito, e soprattutto come fare a smaltire l'arretrato e a smaltire delle liste d'attesa che in alcune regioni erano già molto lunghe e che adesso rischiano di allungarsi ulteriormente. Se volete anche le vostre testimonianze al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, e poi a partire dalle 8:20 ovviamente anche l'800-24-0024. Gli altri titoli e le altre aperture. Lavoro, subito i soldi a tutti è il titolo del quotidiano La Repubblica. L'impegno del presidente l'INPS Tridico per i dimenticati della cassa integrazione rimasti ancora senza aiuti. Si tratta di oltre 1 milione di persone. Ci arriviamo tra un attimo a leggere il pezzo relativo di Repubblica che apre anche sulla che diciamo il titolo forte su questo, ma l'apertura in alto è dedicata alla scuola. Servono più insegnanti per riaprire le scuole, è il titolo con un pezzo di Silvia Bignami. La Stampa decide di aprire con l'intervista che realizza con Matteo Salvini, la spallata di Salvini: Conte vada a casa alle urne a ottobre, e dedica spazio anche al lavoro. Ilva, la rabbia degli operai, ridateci i Riva. E poi Asti, 210 a rischio nella filiera dell'auto. Libero, Conte regala azienda ai criminali. L'apertura è dedicata dunque all'analisi Confcommercio che, dopo la crisi di liquidità, i costi aumentati e il crollo dei consumi, teme l'usura. Il 10% delle imprese è finito agli strozzini. Il Quotidiano Nazionale apre con il virus. Siamo alla svolta, il virus è in gabbia. Nessun morto in 9 regioni, un solo contagiato in Veneto. Il governo, situazione ovunque sotto controllo. E il Corriere della Sera si differenzia ancora una volta da tutti gli altri e parla di migranti, ora quote europee. È la lettera dell'Italia con 4 paesi che vuole regole sugli sbarchi. C'è l'allarme perché in 20.000 sarebbero pronti a partire dopo l'emergenza Covid. Si darebbe l'avvio, di fatto sarebbero pronte le ripartenze dei migranti, e già qualche segnale si è ricevuto in queste ore sulle nostre coste. Da cosa iniziamo oggi? Beh, direi che forse possiamo proprio iniziare dalla scuola e andare su un quotidiano locale. Ne abbiamo parlato poco fa con la segretaria della CISL Scuola, Maddalena Gissi. Abbiamo affrontato entrambi i temi, e però qua forse ci conviene andare sulla Nazione, perché la vicenda della maestra, che la maestra di Prato, che aveva portato in un parco i bambini per leggere loro delle storie, aveva subito la reprimenda del sindacato, appunto arriva proprio da là, arriva proprio dalla Toscana. E dalla Toscana arriva, da parte di fatto della maggioranza di governo, forse l'attacco più duro. Arriva dal presidente della regione Rossi, lo racconta Luigi Caroppo da Firenze. Tuona il governatore Enrico Rossi: la scuola è stato un suo giustificato chiodo fisso da quando il lockdown ha spalancato le porte. Riapre tutto, ma non la scuola. Assurdo, ha detto a fine maggio, e ieri ha rincarato. Lascia delusi il decreto scuola, che non solo arriva in ritardo, ma che è anche sottofinanziato e non chiaro riguardo alle scelte da fare, scrive su Facebook il presidente toscano, nel quale si ricorda, no? La scuola è l'unico settore del mondo del lavoro su cui non abbiamo avuto possibilità di fare un confronto serio per costruire un protocollo sulla sicurezza, dice la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlani in un'intervista poi all'Avvenire. Lo sciopero, aggiunge, un fatto sacrosanto, perché abbiamo bisogno di un piano nazionale per la riapertura in sicurezza. Come vedete, è un tema del quale qua da questi microfoni spesso ci siamo occupati e che è rimasto oggettivamente indietro. Ancora cronache da Covid. Chi è rimasto indietro? È rimasto indietro quel 1,5 milioni di lavoratori che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Ma è un numero pazzesco, se ci pensate. Alcuni di questi sono stati aiutati dalle loro aziende, però anche le aziende stanno esaurendo la cassa. Lo racconta bene il quotidiano La Repubblica, pagina 3, che appunto dice nel titolo, nel pezzo di Valentina Conte: i lavoratori ancora in attesa superano il 1 milione. Ancora senza cassa integrazione di marzo e aprile sono ancora tanti. Quanti? Quasi 1,5 milioni. I numeri sembrano lievitare, e vediamo perché c'è così poca trasparenza in questa materia. L'INPS sul suo sito scrive quasi 420.000, sottraendo dai beneficiari potenziali quelli già pagati dall'INPS o dalle imprese, 8,4 milioni meno 7,6. Si ottiene quasi 830.000. Ma come spiegato, come si legge sul sito dell'INPS, non tutte le imprese dove lavorano questi 830.000 avrebbero ancora presentato l'SR 41, questo il documento che contiene i dati dei lavoratori effettivamente messi in cassa dalle imprese. E qua appunto è la chiave. Morale: 1,5 milioni sono ancora senza cassa integrazione. Repubblica racconta ancora qualche storia di piccole aziende che hanno messo i loro soldi per pagare i dipendenti in questa fase. E però il presidente dell'INPS Tridico, intervistato dal quotidiano a pagina 4, dice: entro venerdì la cassa integrazione sarà liquidata a tutti. Bene, prendiamo questo entro venerdì e venerdì verificheremo. Ancora cronache dal Covid. La sanatoria, o meglio la regolarizzazione, chiamatela come volete, è un tema che è entrato ampiamente nel dibattito politico. I rischi su quel che potesse succedere in termini di irregolarità erano già chiari a tutti. Ebbene, adesso stanno emergendo. Ancora la Repubblica, siamo a pagina 13, le mani del racket sulla sanatoria, 5.000 euro per un contratto falso. Il pezzo è di Alessandra Ziniti. Il racket ha già fiutato l'affare, il prezzo da 3.000 a 5.000 euro per un contratto di lavoro falso, da badante a chi fa il manovale, da colfa a chi lava i piatti in un ristorante, un escamotage che vale il permesso di soggiorno a chi è rimasto fuori dalla sanatoria. Almeno la metà dei 600.000 immigrati regolari che vivono in Italia, di certo tutti quelli che lavorano nell'edilizia, nella logistica, nel turismo, nel terziario. Neanche a una settimana dall'apertura della finestra per la presentazione delle domande di regolarizzazione del lavoro nero e ai patronati, da Roma a Potenza, da Milano a Venezia, si sono già presentati decine di stranieri a chiedere informazioni su quel costo esorbitante della sanatoria prospettato loro dal racket, ed è venuta fuori la truffa. Impossibile intercettarli tutti, ma garantisco che faremo tutti i controlli necessari, assicura il vice ministro dell'interno Matteo Mauri, informato dall'ARCI, che ha subito approntato un numero verde SOS diritti per le denunce delle truffe e delle pratiche discriminatorie che si stanno verificando. Dunque, occhio anche qua alla questione della regolarizzazione. Ancora cronache dal Covid che ci portano sul Messaggero, dove a pagina 9 si racconta di Roma, ma non è solo Roma alla fine. Il Mattino ci racconta di Napoli, poi ci sono molte altre città. Roma tra risse e alcol, movida fuori controllo, da Trastevere a Ponte Milvio, notti nel caos, assembramenti di giovani senza mascherine, lanci di bottiglie, calci e pugni in strada, i residenti esasperati che dicono abbiamo paura. Il pezzo lo firma Marco Pasqua a pagina 9 del Messaggero, e ci mette di fronte a quello che insomma in fondo ci aspettavamo, e se vogliamo anche questo è in parte un ritorno alla normalità. Se volete invece una testimonianza di cosa succede quando un paese mette troppe norme e norma male le cose o le norma in maniera confusa, c'è una storia paradossale che ci arriva a pagina 19 della Stampa, e ce la riporta Giovanni Tomasin da Trieste, ed è la storia di un ottimo manager, così riconosciuto da tutti, riconosciuto da tutte le parti politiche, dai ministeri, da chi opera nel settore, ed è Zeno D'Agostino, il presidente del porto di Trieste. È una vicenda paradossale la sua, perché in città D'Agostino è considerato il principale fautore della rinascita del porto negli ultimi anni. E da tutti quanti, dai lavoratori dello scalo, dagli imprenditori, dal sindaco che è di destra, dalla classe politica e anche dal vescovo. Eppure è stato rimosso, è decaduto dal suo incarico a causa di una sentenza dell'ANAC. E perché? Perché la nomina del 2016 era inconferibile, perché dal 2015 D'Agostino ricopriva l'incarico di presidente in una partecipata dell'autorità portuale, assunto durante il mandato da commissario. Una questione tecnica, nessun illecito, eppure sufficiente a far decadere il presidente con una decisione dell'autorità nazionale anticorruzione, la quale Autorità Nazionale Anticorruzione ha detto: abbiamo agito applicando una norma sulla quale dal 2015 abbiamo più volte segnalato per vie ufficiali le criticità a governo e Parlamento, che tuttavia non hanno ritenuto di intervenire. La vicenda è rimasta sospesa. D'Agostino è decaduto dall'incarico. Patuanelli promette di intervenire, ma chissà quando se ne uscirà. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Le 7:37 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno. Qua. Buon inizio di settimana. Un inizio di settimana nel quale ti porterei in apertura su tre aperture di giornali. Il Messaggero, La Verità e Il Sole 24 Ore, in rigoroso ordine. Il tema è un tema insieme politico ed economico, perché è il tema del MES per rifornire la sanità, che il Messaggero ci presenta come un'ipotesi di piano da 20 miliardi, ne avevamo già parlato perché ne aveva già scritto Il Sole 24 Ore, e La Verità invece lo guarda con timore, no? Il ricatto sulla salute per far passare il MES. Sì, la questione è detta in modo molto semplice: è ovvio che per affrontare il dopo Covid si deve partire dai medici. Il virus è debole se i medici sono forti, scrive Alessandro Gonzato sul Libero, per esempio, ma lo scrivono un po' tutti i giornali. E come tu dicevi, il Messaggero apre con questo piano, con i fondi MES, questo piano di cui parlava Il Sole 24 Ore, un progetto a 20 miliardi, che aveva parlato Il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, nuovi ospedali e assumere 23.000 medici. Pressing PD su Conte, cioè il PD vuole che Conte si pieghi e chieda questi fondi del MES. E La Verità ribatte: col pretesto del coronavirus, ricatto sulla salute per far passare il MES. Convergenze tra PD, Movimento 5 Stelle e virologi per rialimentare il panico sanitario. Il membro Dem democratico del Copasir parla di un misterioso allarme per un'ondata di ricadute sugli asintomatici che imporrebbe salvastati, fra virgolette, senza passare dall'aula, ma il comitato non è informato. Sì. La storia del MES è nota, questa sì. Istituzione per far arrivare dei soldi dall'Europa. La Lega e il Movimento 5 Stelle fin qui si sono opposti, ma secondo quello che dice La Verità anche il Movimento 5 Stelle darebbe adesso una mano per alimentare questo panico, in nome del quale chiedere i soldi. E i nemici del MES dicono: ma scusate, nessun altro paese europeo, neanche la Grecia, neanche i più disperati chiedono i fondi del MES, perché stai a vedere che dobbiamo chiedere solo noi. Comunque, per chi vuole avere un'informazione più completa, deve assolutamente prendere in mano Il Sole 24 Ore, dove c'è una grande inchiesta all'inizio, sulle pagine 2 e 3, anche sì, in prima pagina. Marta Casadei e Michela Finizio, no? Che sì. Scrivono questo pezzo sulla nuova sanità, su come si attrezzerà la nuova sanità sul territorio. Ma delude i medici di base. La mappa delle assunzioni, il cardine del piano sono gli infermieri dedicati alle cure domiciliari, i posti provincia per provincia da Il Sole 24 Ore. La dote è di 1.260 milioni, centrali operative regionali, nuovi numeri di emergenza come il 116 e unità speciali, il risolto il ruolo dei medici di famiglia. Insomma, siamo in mezzo al guado un po', mi pare. In mezzo al guado, molto lontani da un piano preciso, articolato, e in più con questa pietra, questa macigna del MES, senza il quale questo piano non si può fare. Sì. Vedremo adesso se riesce. Certo, i tempi sono troppo lunghi rispetto al fatto che sono state messe su importanti task force come quella guidata da Vittorio Colao già oltre 2 mesi fa. È strano, ci troviamo all'appuntamento del dopo epidemia e non ci sono e non ci sono cose concrete, però, sì. Però ci pensa Conte con questi stati generali. Con gli generali. Stati generali, eh. Sento un filo di ironia, Paolo, mi sbaglio, non... Beh, senti, io oggi veramente ho perso la pazienza perché ho letto un articolo di Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. Dice: per il Premier, per questi stati generali, che tutti hanno paura che siano una parata, una cosa sì. fatta per videoconferenza. Dice: per il Premier basterebbero 3 giorni, da giovedì, cioè giovedì, sì. venerdì e sabato. Il PD chiede invece 2 o 3 settimane di ascolto. E che diavolo, 2 o 3 settimane di ascolto? È lunghetta, lunghetta. Che facciamo tutto giugno a fare le giornate dell'ascolto e finché ascolti non puoi prendere delle decisioni perché prima devi ascoltare tutti. Quindi vuol dire che fino alla fine di giugno non verranno prese delle decisioni operative o se ne continuerà a discutere. Come abbiamo discusso stamattina sulla sanità, ma la settimana scorsa sulla scuola, anche lì, che diavolo, sì. Ci sono ormai assembramenti, diciamo la verità, con o senza mascherine in tutta Italia di ogni tipo, e la scuola sta lì ancora a vedere se bisogna fare 3 turni a scuola. E il plexiglass, mettere... non il plexiglass, sì, sì, sì, giusto. È veramente giusto. Troppo, sono troppo lenti, hanno idee troppo imprecise il governo. Tra l'altro c'è un sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla Stampa che è molto accurato, che dice che la fiducia che era cresciuta moltissimo nei confronti del governo durante l'epidemia adesso comincia a calare, e comincia a calare anche in modo vistoso. Attenzione, perché queste due questioni, per dirne due, la sanità da cui abbiamo aperto e la scuola, sono questioni molto importanti. Ecco. Sì. Sul fronte territoriale c'è tutta la vicenda della regione Lombardia e del presidente della regione Attilio Fontana, già citavamo prima, no? I due titoli contrapposti sono quelli del Fatto Quotidiano e del Giornale. Il Fatto Quotidiano che va all'attacco, è andato all'attacco già da ieri sulla base di questa inchiesta di Report, nella quale si parla di un appalto per i camici dato ad un'azienda nella quale la moglie del presidente della regione, Attilio Fontana, è il 10% e il cognato è amministratore delegato. Il Giornale invece dà la versione di Fontana con più enfasi, nella quale dice Fontana: allora, guardate che questi camici sono stati regalati, le fatture sono state stornate e quindi non c'è niente da indagare. Quindi sta tutto in 3 righe a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Commessa 513.000 euro fatturati dalla regione alla ditta della famiglia e della moglie del leghista per forniture alla sanità. Fatturati, questo sta nel verbo. Sì. Se sono stati fatturati e poi non stornati, cioè non incassati, il caso non c'è e quindi basta vedere... chiedere, ma sono stati pagati questi camici? Perché se Fontana li ha regalati è una clamorosa gaffa, nel senso che per continuare a dire, a fare critiche a Fontana, presidente della regione Lombardia, si tira fuori una cosa in cui addirittura è un episodio di generosità, la sua famiglia, se invece sono stati pagati allora si apre una mega inchiesta. Sì. Tirare fuori la trasmissione di cui parlavi tu, Report, per non da stasera, tirare fuori entro stasera se questi soldi sono usciti e sono andati ai familiari di Fontana o non sono usciti. Se non sono usciti è una montatura, no? Sì. Si può dire, parlare di montatura. Allora, il traffico e poi, no, non ce l'abbiamo il traffico, no, Peter Bescapè, abbiamo dei problemi di collegamento, evidentemente meglio. Lo posso dire io, sì. Il traffico comincia a essere irregolare perché ci sono più auto che nei giorni scorsi. Però nel frattempo è arrivato, mi dice Peter Bescapè dalla regia, via via, sentiamo. Mattino. Allora, riprendiamo da un pezzo del ritorno alla normalità, caro Paolo Mieli, è il fatto che si torni a parlare di migranti, che si ricomincino a mandare lettere dai paesi di frontiera come l'Italia, come Malta, come la Spagna all'Europa per chiedere una redistribuzione di chi arriva sulle coste. Eccolo qua, quindi l'apertura del Corriere della Sera. deve leggere il Corriere della Sera, immigrazione e l'allarme dei servizi pronti a partire in 20.000, Libia e Turchia potrebbero allentare i controlli su chi parte, sbarco autorizzato dai maltesi, minacce su equipaggio, Fiorenzo Sarzanini che scrive, come scrive anche di questa lettera di cui parlavi tu, dell'Italia alla UE con altri quattro stati che sono Spagna, Grecia, Malta e Cipro, che bisogna mettere le quote obbligatorie. Sembra di leggere un giornale dell'anno scorso, sì. C'è meno enfasi, però il problema c'è, perché ne parla anche La Verità. Lotta all'invasione, immigrati va peggio di prima. Durante l'emergenza Covid i ricollocamenti sono stati più lenti, però gli sbarchi sono moltiplicati. In 5 mesi sono cresciuti del 290%. E ora, secondo uno studio ONU, qua si cita uno studio ONU, i flussi aumenteranno. Tra l'altro arrivano centinaia anche a Trieste, c'è il sindaco Roberto Di Piazza che si lamenta sempre sulla Verità, arrivano centinaia a Trieste abbandonato da Europa e al governo, a Lampedusa scoppia sì, il finimondo. A testimonianza, stando almeno a quello che dice Di Piazza, che si è riaperta anche la rotta balcanica, no? Quindi certo, anche questo è un segnale. E poi ricordiamoci che a Lampedusa addirittura bruciano i barconi per impedire che vengano riutilizzati, e il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, esasperato per l'attentato contro il monumento simbolo e il rogo dei barconi. I clandestini continuano a approdare, gli abitanti chiedono la chiusura dell'hotspot. Insomma, sì, molto grave la situazione, sì, a Lampedusa. Sì. È chiaramente un fronte di preoccupazione. Intanto la ministra dell'Interno Lamorgese va a Tunisi per rinforzare l'accordo per il rimpatrio dei tunisini. Si parla di 20.000 persone pronte a partire, almeno così nel pezzo di Fiorenza Sarzanini. Esatto. E questo, Conte ci può... nel frattempo, sì, se ne è occupato, ha sentito il presidente egiziano Al-Sisi, ha parlato di tutte queste questioni, perché Al-Sisi protegge Haftar e quindi rientra nella partita libica. Haftar è il rivale di Al-Sarraj, però la stampa protesta perché c'è un articolo molto informato di Francesca Sforza, dice che quando ha sentito Al-Sisi, silenzio su Regeni. Conte non gli ha parlato di Regeni, a poco questa questione di Regeni, come temevamo, viene abbandonata a se stessa e nessuno chiede più chiarificazioni su questo ragazzo italiano che stava come studente in Egitto ed è stato rapito ed ucciso. Sì. Allora Paolo, il tema dell'immigrazione ci porta alla piazza di ieri, che è la piazza che ha visto il ritorno. Io lo so, ti stai avvicinando, io lo so. No, guarda, lo so. Non resisto. Allora, sono tornate le sardine ieri, sono tornate. Vogliono in che piazza. La sinistra vogliono lo jussoli, immediatamente lo jussoli. Ma guarda, questa volta ti devo dare ragione, perché anch'io mi stupisco. L'altra settimana scorsa abbiamo parlato a lungo del fatto che le sardine annunciavano che si ritiravano per un lungo periodo in una meditazione. Ieri hanno fatto una manifestazione, quella dove tu sei arrivato sghignazzando, sogghignando, e ci sono i giornali di destra che protestano perché effettivamente erano stipati, cioè avevano più mascherine di quelli della destra della settimana scorsa, però non tenevano sicuramente le distanze di sicurezza, e chiedono al popolo di sinistra e agli indignati di sinistra, dice, ma come, noi quando scendiamo in piazza alla destra e voi dite che sono sudati, schifosi, sudati è una critica a Caro Figlio che li ha accusati, allo scrittore Caro Figlio che li ha accusati di essere sudati, e quando scendono i vostri invece li trovate asciutti, tranquilli, belli, puliti, e non vi indigna che possano essere un focolaio di diffusione del virus. Scegliete una volta se si possono o no fare questo genere di manifestazioni. Del resto Paolo, già dal nome insomma si poteva intuire, no, che le sardine non... sei sempre lì a pizzicare il dettaglio, hai ragione, però ti devo riconoscere che hai ragione. perché non una sardina deve stare stretta per definizione, deve stare non stretta, non può vedere sardine deve una per ogni scatola, esatto, deve assemblarsi la sardina per definizione. Ascolta, ti porterei su altre due cose, insomma, un po' più leggere. Ho visto un'intervista, una lunga intervista a Reinhold Messner, che mi ha incuriosito per questo, perché dopo aver denunciato per anni che l'Himalaya, che l'Everest erano diventati una specie di covo di turisti, c'erano tutte queste spedizioni organizzate, troppo... L'ho visto anch'io, un'intervista a Guido Andruetto su Repubblica. Il mio Everest è solo, nessuno vuole salirci. Come? Il turismo è fermo per la pandemia, un disastro economico per il Nepal, ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro, effettivamente. Beh, scusa, anche dai. Anche su questo, oggi ti devo dare ragione su molto. Anche su questo delle due l'una, se la battaglia di Messner degli anni scorsi aveva un senso, noi dovremmo essere contenti che oggi finalmente l'Everest respira, non ha tutti questi predatori che ne insidiano le rocce. Invece niente, grande lamento. A Kathmandu c'è un lutto, secondo quello che ci racconta Messner, perché ci sono gli Sherpa disoccupati per il crollo del turismo, scattano gare di solidarietà e raccolta di fondi, beh, questo è positivissimo, che scattano sì. queste gare, però... Insomma, delle due l'una, o il turismo no, di quel tipo, oppure no, insomma. Ti vorrei portare in chiusura, altro uomo con la barba, altra icona italiana su Francesco Guccini. Ieri ha rilasciato... Abbiamo già festeggiato Francesco Guccini. Lo so, però ieri... però ieri ha rilasciato questa intervista al Corriere della Sera, nella quale dice... Guardate che io non ho mai votato comunista, questo ha scatenato un po' di panico, non ho mai votato comunista, ho sempre votato socialista. E adesso il giornale lo riprende, no? Un po' sì, ironicamente. L'intervista era di Aldo Cazzullo e oggi sul giornale c'è un festeggiamento, direi, di Tony Damascelli. Guccini anti-PC che vota Craxi cambia la storia, dice adesso... Ve lo prendete voi, il grande cantante, icona della sinistra, che ci racconta veramente Guccini. Io l'ho letta con attenzione questa intervista, non ha mai detto di aver votato Craxi. Dice, ma io sono sempre stato socialista, ho detto in modo generico, però Tony Damascelli lo va a pizzicare su questo voto. Se è sempre stato socialista, il Partito Socialista si è estinto nelle sue forme classiche tra il 92 e il 94, e negli ultimi 10-15 anni era stato guidato da Bettino Craxi, che lo aveva portato anche al governo. Quindi se ho sempre votato socialista, se ne può benissimo trarre la conclusione che ne trae Tony Damascelli. Sì, curiosa discussione, curiosa dibattito. Sì, dice Damascelli, il ferroviere, l'Eschimo, il compagno di festa dell'Unità e di Bella Ciao e altri canti, non è mai stato comunista, ha sempre votato Partito Socialista Italiano, non la falce, il martello, ma il garofano. Simboli diversi di lotta proletaria, Togliatti e Craxi, per dire, ma in mezzo aggiungo io Berlinguer, Enrico e Bettino Craxi. Ecco qua. Così anche Guccini. Grazie Paolo Mieli. Noi ci risentiamo mercoledì. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo ovviamente dopo GR24 con Maria Latella. Come già vi dicevo, affronteremo il tema della sanità. Per una volta non tanto e non solo dal punto di vista strettamente del Covid, ma appunto di tutto quello che è rimasto inarretrato in questi mesi di emergenza, quanto si sono allungate le liste d'attesa, quanti interventi sono saltati, quanti malati che erano già cronici rischiano di cronicizzarsi ulteriormente, rischiano di vedere peggiorate le loro condizioni. E poi in chiusura con il leader del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. A tra poco.